È importante capire che la stabilità finanziaria all'interno dell'area dell'euro è nell'interesse di tutti, ma in primis dei paesi creditori che hanno le esposizioni maggiori. Quanto maggiore la sfiducia, tanto più sono i flussi di capitale che vanno verso alcuni, un paese in particolare, ma insomma i paesi che sono maggiormente creditori. In questo modo tanto più aumenta la loro esposizione nei confronti degli altri paesi. Questi sono rischi, ma diventano certezze nel caso di frattura dell'area dell'euro. Diventano vere perdite. Quindi l'assicurare la stabilità finanziaria è in primis nell'interesse dei paesi creditori.